Italia in controluce. Italia in controluce, due edizioni quotidiane che raccontano l'Italia. Una buona giornata da Alessandra Tedesco. 20 anni fa, precisamente il 14 aprile del 91, a Genova l'affondamento della petroliera Eve, il più grande disastro ambientale del Mediterraneo. La nave era alla fonda a 4 miglia dal porto di Genova Voltri. L'11 aprile, durante le operazioni di bilanciamento del carico, si scatenò un incendio che si protrasse per ben 3 giorni, quindi l'affondamento. Decine di migliaia di tonnellate di petrolio si riversarono in mare. Cosa accadde e com'è oggi la situazione? Da Genova il reportage di Andrea Ferro. L'11 aprile 1991. A Genova è una bella giornata di primavera. Il mare è calmo e in rada davanti al porto di Multedo troneggia la sagoma imponente di una super petroliera lunga 225 metri di 110.000 tonnellate di stazza. È la Aven, batte bandiera cipriota. Fabio Capocaccia è il direttore generale del porto. Aveva scaricato 80.000 tonnellate al porto petrolio di Multedo, quindi ne aveva 260.000, la sua portata credo che fosse intorno alle 280.000, quindi era praticamente arrivata piena, ne ha scaricato 80.000 a Multedo e poi aveva 140.000 da portare in Sicilia. Aveva appena ricevuto l'ordine di portare in Sicilia, tanto che il comandante doveva fare delle operazioni di bilanciamento del carico. Dopo lo scarico a Multedo c'erano delle cisterne vuote, a un certo punto la nave bisogna ribilanciarla, trasferire il carico da una cisterna all'altra, e nel fare questo sono stati fatti degli errori umani. All'ora di pranzo, da Livorno, i telegiornali mostrano le prime immagini di una petroliera in fiamme, la Agip Abruzzo, e di un traghetto scarnificato dal fuoco con il suo carico di vite umane, il Moby Prince. 140 morti nella collisione tra le due navi avvenuta la sera precedente. Improvvisamente un'esplosione rimbomba ed atterrisce la città. In fretta le fiamme divampano, circondano il gigante con il fumo che oscura il sole. Il comandante e i quattro marittimi sono dilaniati dalle deflagrazioni, mentre attorno alla petroliera ondeggiano i mezzi di soccorso. La nave, dal momento delle prime esplosioni, era priva di ancora, quindi praticamente in balia di se stessa e senza comando, perché il comandante disperso si ritiene che abbia perso la vita in una delle prime esplosioni, quindi senza comando, senza ancora, quindi completamente in balia di se stessa. Il rischio era che potesse avvicinarsi ad altre navi e quindi creare l'effetto domino, che è spaventoso in questi casi, perché se una nave si avvicina a un'altra nave la dimensione del problema si moltiplica. Allora, in quel senso abbiamo allertato ovviamente i rimorchiatori, poi devo dire rimorchiatori, piloti e anche i barcaioli di Multedo sono stati assolutamente fondamentali, cioè sono stati coraggiosissimi, a disposizione, hanno gestito le operazioni. La scena è apocalittica, un gigante del mare divorato dal fuoco davanti alla città che assiste a quell'immenso falò con il fiato in gola e l'incertezza di quello che potrà ancora accadere. La nave aveva un contenuto di 140.000 tonnellate di greggio. Il rischio era che queste tonnellate si dispersassero sulla superficie del mare e quindi poi sulle coste. Ecco, quindi questo era il rischio. Allora, la prima decisione è stata, dato che la nave è persa, non c'è, quindi lasciamo bruciare la nave. Difatti, se lei vede dalle foto, si vede chiaramente che i getti dei rimorchiatori non sono mai sulla nave, ma sono sulla superficie dell'acqua, per limitare le chiazze, cioè per contenere lo sversamento. E questa decisione ha consentito certamente di smaltire almeno il 50% del carico. È difficile dire quanto, ma molto probabilmente intorno alle 100.000 tonnellate sono partite proprio attraverso combustione. C'è un'altra decisione da assumere in fretta per governare l'agonia della Aven. Ancora Fabio Capocaccia, all'epoca direttore del porto di Genova. La seconda decisione, ancora più difficile, è stata quella di riportare la nave sotto costa. E qui bisogna premettere una cosa abbastanza non facile da comprendere. La nave aveva ancora del petrolio nelle cisterne. Se la nave si fosse inabissata nel fondale di 1000 metri, dove la nave stava derivando per effetto del vento, sarebbero implose le cisterne e il greggio sarebbe venuto in superficie. Quello l'abbiamo visto chiarissimamente dall'inizio. Il rischio, io che poi sono ingegnere, dicevo: guardate, le cisterne non possono tenere se si inabissa a 1000 metri. Allora la nave è stata, dunque, prima è stata agganciata e la fase di aggancio è stato un capolavoro dei rimorchiatori, perché i rimorchiatori sono avvicinati a una nave in fiamme e sono riusciti a passare una cima metallica intorno al timone. Quindi hanno imbrigliato la nave. Quando la nave era imbrigliata si trattava di decidere dove portarla e abbiamo deciso di riportarla sotto costa. E d'altra parte non c'era altra possibilità se non quella di cercare un fondale intorno ai 100 metri dove la nave potesse adagiarsi senza rompersi. È stata una gestione estremamente positiva, però in gran parte aiutata dalle condizioni meteo. Condizioni erano buone, ma soprattutto il vento era della montana, era da nord, cioè la grande fortuna è stata che la nave derivava ma verso il centro della baia. Dopo quasi tre giorni l'Aven è risucchiata sul fondo ad 1,5 miglia a largo tra Renzano e Cogoleto, ma prima di colare a picco emette l'ultimo respiro, è un'esplosione fortissima. Nei giorni successivi le correnti spingono l'immensa macchia di greggio al di là delle panne, il petrolio si spiaggia sulla costa con danni gravissimi che macchiano l'immagine di una fetta della riviera di Ponente. È il più grave disastro ecologico del Mediterraneo. Nel 2008 il Ministero dell'Ambiente esegue la bonifica del relitto. Rosella Bertolotto è la dirigente di ARPA Liguria che ha eseguito i monitoraggi. È stata fatta la bonifica del relitto e questo mi pare che sia un risultato notevole, perché comunque bonificare un relitto su un fondale di 80 metri non è che sia proprio banale, quindi invece è stato fatto molto bene, è stato fatto anche in tempi decisamente, cioè da quando è stata affidata l'incarico a quando è stata realizzata la bonifica sono passati nemmeno un anno, quindi insomma è stato progettato e realizzato in modo assolutamente professionale da questa ditta olandese a cui è stata commissionata. E noi col monitoraggio che abbiamo fatto proprio sul relitto abbiamo visto che questa bonifica effettivamente è servita a pulire completamente il relitto, quindi anche a metterlo in sicurezza per l'attività di diving, di ricreativa, e quindi questo mi sembra un risultato positivo di cui tener conto. Il resto, cioè la bonifica dei fondali, è stato visto chiaramente che non esiste a oggi una tecnologia che permettesse di poterla fare, non si sapeva in buona sostanza e non si sa come farla, e quindi a quel punto si è pensato di non farla. Quindi la bonifica del relitto è stata realizzata, ma il fondale attorno al quale si è adagiata l'Aven resta un buco nero e basta smuoverlo ed ecco che rigurgita catrame. Per Andrea Agostini di Legambiente la situazione è irrimediabilmente compromessa. Là sotto c'è una lunga striscia di petrolio, di bitume sul fondo, che resterà lì ad imperitura secula perché non hanno i soldi per tirarlo fuori. Da parte di ARPAL però si confida nell'immensa saggezza della natura, capace di rigenerarsi anche laddove l'uomo ha devastato. Ancora Rosella Bertolotto. Diciamo che la natura normalmente trova un equilibrio in modo abbastanza soddisfacente, molto più di quanto non sappiamo fare noi. Ci sono come delle specie di deposizioni, delle pizze cosiddette, quindi delle aree più o meno larghe in cui si è depositato, altre aree a macchie diciamo. Ci sono dei fondali lì davanti, cioè davanti lì c'è un canyon che arriva a 900 metri, per cui insomma facilmente è su dei fondali molto profondi dove naturalmente la temperatura è molto fredda, quindi è tutto abbastanza duro e denso e se ne sta lì, è in più ricoperto sicuramente da altro sedimento che è arrivato dopo e che quindi in qualche modo lo tiene in equilibrio, lo inertizza. Ovviamente anche pensando di fare una bonifica sperimentale in un'area eccetera eccetera significa andare comunque a rimestare questo equilibrio che si è creato, e sicuramente almeno in una prima battuta questo rimestamento porterebbe ovviamente un aumento dell'inquinamento nell'acqua di fatto, no? Calcolati i costi, valutata una sostanziale impotenza ad intervenire, adesso si chiede aiuto ai pesci, ai quali domandare fino a che punto il mare è rimasto contaminato dalle scorie della Aven. È stato proprio deciso di fare un controllo mirato sui pesci di quella zona lì. Ora, non è che sia facile fare un controllo sui pesci, perché i pesci naturalmente si muovono. Infatti, per esempio, per le nostre campagne di monitoraggio sul relitto, noi avevamo scelto di stabulare delle ostriche o di prendere dei molluschi, comunque degli organismi stanziali che residessero lì, perché ovviamente quello che sta fermo filtra l'acqua proprio in quei punti lì. Quello che si muove non sai mica dove va. Secondo gli ambientalisti, in realtà è ancora presto per poter stabilire le conseguenze sull'ecosistema e per la salute indotte dal disastro di 20 anni fa. Andrea Agostini. Nel momento in cui petrolio, idrocarburi, chiamiamoli fumi dell'incendio che si sono depositati sul fondo, sono lì, entrano e sono già entrati nel ciclo alimentare. Voglio dire, se io mi mangio un pesce preso lì, i livelli di contaminazione sono quasi inesistenti, anche possibile. Il problema è che se poi nella mia vita di pesci ne mangio 30 o 40, la somma di tutti quei pesci fanno un'altra cosa. Italia in controluce, seconda edizione. Cercateci su Facebook, Twitter e comunicate con noi via mail controluce@radio24.it. Torniamo domani alle 6:30, sempre su Radio 24.